Senti, e dopo? Questo è successo nel 2007 e in quel periodo in ospedale chi erano i tuoi affetti? Io ho rischiato l'intervento al cervello per un ematoma, che però per fortuna dopo varie TAC si sono accorti che si era riassorbito, quindi tutto sommato mi è andata bene. Avevo una bella stazza all'epoca, avevo una buona resistenza e presumo che sia stato anche merito di questo. Mi hanno tenuto fasciato ad aspettare, ma il decorso, a parte un dito rotto, è stato abbastanza rapido. Intorno avevo i miei cugini, i miei zii, il fratello di mia mamma e tanti amici sono venuti a trovarmi. Io mi ricordavo quasi tutto di quella maledetta mattina, ma non sapevo come stessero i miei genitori. Per una settimana alle mie domande su mia mamma tutti mi rispondevano che era in rianimazione. Hanno aspettato una settimana prima di darmi la notizia che lei non c'era più. Penso che sia stato giusto così. I medici avranno pensato, chissà come reagisce questo qua. Quando poi me lo ha detto il prete del mio paese che mia madre non c'era più, ho sentito immediatamente una scossa bella forte che mi è partita dal coccige e mi è arrivata alla nuca. Questo ricordo. Non sono riuscito a piangere subito. È stato 2 mesi dopo, mi ricordo, quando mi sono accorto che facevo fatica a dire la parola mamma. A quel punto mi è partito un pianto convulso. Però in ospedale nei primi giorni non riuscivo. Avevo mezzo capito cosa era successo, ma non riuscivo a dare il giusto peso. Mi ricordo sta scossa, dritta, sta pacca nella testa quando il prete me lo ha detto e poco altro. Sono stato in ospedale per 10 giorni, non di più, poi una volta fuori mi sono trasferito a casa dei miei zii, dal fratello di mia mamma. La sua casa era ed è tuttora di fianco alla nostra, che nel frattempo era stata posta sotto sequestro dai RIS per le indagini. Ho vissuto con i miei zii di fianco a casa, dai 15 ai 19 anni, quando poi mi sono trasferito per studiare. Nel primo mese e mezzo ho cominciato a rendermi conto di cosa fosse accaduto e che cosa mi aspettava. Avevo capito che mi era accaduto qualcosa di terribile, che in un colpo solo mi aveva portato via per sempre mia mamma e che mio papà era responsabile di quello che era successo. Avevo saputo anche che lui stava lottando tra la vita e la morte in un altro ospedale, ma che, anche se si fosse ripreso, gli sarebbero aspettati molti anni di carcere, che me lo avrebbero tenuto lontano. Ma insieme al disastro che mi si parava di fronte, ero come a un bivio. O abbandonarmi al baratro della disperazione, oppure cercare, anche sforzandomi, una normalità e provare ad andare avanti. Così, 1 mese e mezzo dopo la tragedia, ho deciso di provare ad incontrare mio padre. With me, making up lovers on their own tonight. Need to see how it's done so I can change inside. I belong with everyone, everyone I've ever known. I belong with everyone, everyone I've ever known is here. Thank you. non voglio stare a insistere, sì, sì. Ma che domande ti eri preparato? Avevi deciso tu di andare a incontrare tuo papà. La reazione di tuo papà quando ti ha visto, qual è stata? Dopo un mese e mezzo c'è stato il primo incontro con mio papà. Mi era stato proposto sin da subito e io da subito avevo pensato che avrei voluto incontrarlo e fargli delle domande. Volevo sapere perché, che cosa lo avesse spinto, quale forza misteriosa avesse trasformato l'uomo che avevo conosciuto per 15 anni in una persona capace di compiere quel delitto terribile. Cosa gli aveva fatto mamma? Cosa gli avevo fatto io? Volevo sapere se avesse paura di quello che gli aspettava, del processo, del carcere. Mi ero preparato una lista di domande a cui avrei voluto che mi rispondesse. Lo andai a trovare nell'ospedale psichiatrico dove era stato ricoverato, ma appena lo vidi scoppiai in lacrime. Lui cercava di dirmi qualcosa, ma non riusciva a parlare. Nel tentativo di suicidarsi si era tagliato la gola, il taglio aveva lesionato in parte le corde vocali e gli faceva molto male. È stato straziante. Faceva molta fatica, poi dopo la voce l'ha ripresa, ma quello è stato uno dei momenti più strazianti per quanto riguarda il mio tentativo di ricomporre il nostro rapporto dopo quello che era accaduto. Io non riuscivo a leggere le domande che mi ero preparato, singhiozzavo e basta. La prima e unica domanda che gli ho fatto è stata: perché? Ricordo solo la mia domanda, neanche mi ricordo la risposta. Lui scuoteva la testa, mi sembra. Non riusciva a parlare, ma non solo per la ferita, faceva una gran fatica a rispondermi, non riusciva a guardarmi in faccia. Non riuscivo a parlare né a recepire quello che mi veniva detto. C'erano altre persone oltre a noi due, ma non sono intervenute o se l'hanno fatto l'ho rimosso, non me lo ricordo. Non mi ricordo nemmeno come ci guardavamo io e lui. Mi sembrava di vedere, di sentire tutto come dall'abitacolo di una macchina quando piove così forte che nemmeno il tergicristalli serve a niente. Un rumore indistinto e assordante nelle orecchie e acqua grondante sugli occhi. Gli ho fatto anche altre domande, ma tutte sottendevano quella prima. Quell'incontro è durato poco, lo ricordo poco. Forse ho cancellato molti dettagli di proposito per non farmi del male, ma non lo dimenticherò mai. È stato il momento più intenso. Dopo, per andare avanti, mi sono fatto la corazza. Ho scelto questa reazione. Però domandargli perché è stata la domanda più difficile. Linee d'ombra. È una delle storie più crude che abbiamo raccontato, senza dubbio, e siamo davvero grati alla persona che ha deciso di raccontarcela, che, come avete sentito, non vuole intervenire con la sua viva voce, si sente la voce di Mauro Pescio e la mia che racconta invece sua. Nonostante tutto, noi lo ringraziamo e continuiamo a raccontarla, e continua così. Volevo chiedere due cose. La prima è: quando sei tornato a scuola, hai sentito degli occhi diversi addosso, cioè da parte dei tuoi compagni e anche con i professori? Volevo sapere se, cioè, quello che è successo alla tua famiglia a maggio, quando tu sei tornato a scuola, sai, c'è quella cosa un po' che ti senti gli occhi addosso un po' diversi da prima. Da quando è accaduta la tragedia, io sono tornato a scuola l'anno successivo. Essendo accaduto a fine maggio, l'anno scolastico stava finendo, erano proprio gli ultimi giorni. Per fortuna ero abbastanza in pari con i voti. Stavo rischiando un po' il debito per una materia, ma mi è andata bene. Sia i compagni sia i professori non mi hanno fatto pesare nulla in quel periodo. I miei compagni, al contrario, dopo una settimana da che ero uscito dall'ospedale, sono venuti a trovarmi a casa dei miei zii. Anche con i prof avevo un ottimo rapporto. Mi trovavo veramente bene con la maggior parte di loro. Ho avuto vari insegnanti che ci hanno portato dalla prima alla quinta, quindi sono stato molto fortunato alle superiori e le ho vissute tutto sommato abbastanza bene. Ricordo però un episodio che mi aveva dato molto fastidio. Da quando mi sono ripreso, ho una grossa cicatrice sul collo che è abbastanza visibile. Oggi non ci faccio neanche caso, nel senso è come se non ce l'avessi, ma durante il primo anno di scuola, dopo la tragedia, la ferita si è in parte riaperta e ho dovuto affrontare qualche nuovo intervento. Immediatamente dopo l'intervento, alcuni ragazzi di prima, evidentemente incuriositi dal racconto che si erano fatti sulla mia cicatrice, avevano cominciato a fissarmi di nascosto, come a volere vedere, a cercare chissà cosa. Sono andato avanti fino a quando un giorno, all'intervallo, mi ci sono messo di fronte e li ho ripagati con la stessa moneta. Li ho fissati, occhi negli occhi, ininterrottamente, fino a quando non se ne sono andati. Però, a parte questo piccolo episodio, il resto dei miei anni scolastici è stato molto tranquillo. Mio padre intanto era stato trasferito in carcere, prima in quello più vicino a casa e poi in un secondo, un po' più distante, ma nemmeno troppo. Ci ho impiegato un po' ad abituarmi ad andare a trovarlo ai colloqui. Non è stato facile abituarmi all'idea di entrare in carcere, né che mio padre ci stesse dentro. Prima di allora per me il carcere non esisteva, era un posto lontanissimo, sconosciuto. Mai mi sarei aspettato che diventasse un luogo così familiare. Ma difficoltà a parte ho continuato a cercare mio padre, lui mi spediva molte lettere e non è stato facile nemmeno accettare questo tipo di rapporto. Facevo fatica a leggerle. Quando le aprivo mi tremavano le mani. Fino a poco prima ci parlavamo tutti i giorni come tutti, a tavola, a casa, e ora potevamo comunicare solo attraverso delle lettere o poco più. Mi scriveva cose semplici, mi chiedeva come stavo, come andavano gli studi. Ovviamente si pentiva sempre, però io non volevo parlarne troppo. Cercava di raccontarmi come se la viveva, di cosa aveva trovato dentro al carcere. Io gli rispondevo più raramente per iscritto, perché preferivo le chiamate. All'inizio, per il primo anno e mezzo, c'era stato qualche problema con i numeri di telefono per le regole interne, però col passare del tempo siamo riusciti ad ottenere anche la chiamata sul cellulare, anche se erano solo 10 minuti. All'inizio bisognava per forza fare attraverso il telefono fisso, però poi siamo riusciti con il tempo a ottenere 10 minuti con il telefono, quindi la cosa era un po' più libera. Le visite invece erano organizzate in 6 ore al mese, ma lui poteva accedere ai colloqui per 6 ore e noi, da fuori, dovevamo organizzare i nostri turni. Help, I lost myself again, but I remember you. Don't come back, it won't end well. Scusami, questa cosa qui della considerazione degli altri, eccetera, è interessante. Per cui c'è il fatto che alcune persone si permettano di dirti come hai fatto, io non lo farei, come, cioè, e invece nel paese? Non sono mai stato interessato alle dicerie e non saprei dire se ce ne siano state, ma vivo e vivevamo in un piccolo paese dove ci conoscevamo tutti e dove tutti sanno tutto di tutti. La mia famiglia poi aveva una buona reputazione, mio papà lavorava in banca, mia mamma faceva la maestra. Avevano 2 posizioni molto stimate nel nostro piccolo centro. Forse per questo le persone fin da subito, dopo che mi incontravano, mi domandavano «E il papà come sta?». A me quella domanda ha sempre dato molto fastidio. So che può sembrare una piccolezza, ma sentirmi domandare come sta il papà mi mandava su tutte le furie. Per non andare a litigare rispondevo «Bene, grazie», ma la verità è che avrei voluto dire «Ma va a quel paese, cosa mi viene a chiedere come sta il papà, che lo sai benissimo cosa è appena accaduto?». Ma non avevo voglia di stare a discutere, volevo solo togliermeli dai piedi. Un'altra cosa che mi piace ancora meno sono quelli che vogliono darmi i loro consigli. Mi dicono «Ma secondo me...» Oppure mi domandano come faccia a cercare di nuovo mio padre. «Io avrei chiuso i rapporti», mi ha detto uno. La domanda «Come hai fatto?» può essere legittima, sia chiaro, ma lo è di meno il prosieguo della discussione, fatto di «Ma io avrei fatto così...» A questi mi verrebbe da sbattere loro in faccia che mia mamma non c'è più per mano di mio padre e che non hanno idea, nessuno di loro ha idea di che cosa significhi prima di esprimere un giudizio su quello che devo fare o non devo fare. Non auguro a nessuno quello che è capitato a me, ma non voglio che i commenti gratuiti mi facciano davvero male. Non ho bisogno dei loro dubbi, mi bastano i miei. Io stesso non so come faccio. Però voglio avere una vita normale, voglio andare avanti, voglio finire bene, non male. E avere un rapporto il migliore possibile con mio padre, per me, rientra in questo progetto di vita. E grazie davvero per questo piccolo regalo, come sempre, lo dico sempre ma è vero, tutte le storie seriali sono per noi un piccolo regalo, il fatto che le persone si aprono questo fino a tal punto, Mauro le contatta, spesso le incontra, in questo periodo le sente al telefono e ce le restituisce, è davvero un grandissimo regalo. Quindi grazie mille a lui, grazie a voi che avete ascoltato, riascoltatela in podcast se vi va, altrimenti mandateci una vostra storia, linee d'ombra@radio24.it, una storia che abbia in mezzo un confine, una linea d'ombra da varcare. Buona domenica, a lunedì per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!